in primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa della stampa internazionale, quindi non solo quotidiani che sono quelli che di preferenza guardiamo per Effetto Mondo all'interno di Effetto Giorno con Alessio Maurizi. Questa settimana inizio dai settimanali che sono usciti venerdì. C'è una doppia copertina per Time, il news magazine americano, quella fatta per l'edizione internazionale ha soltanto sotto il nome della testata le cifre dell'anno che stiamo per finire, 2020, e sopra c'è una croce e il titolo dell'editoriale è The Worst Year Ever, il peggior anno di sempre. Naturalmente mi sono chiesta, poi ho letto naturalmente gli articoli all'interno, sappiamo per chiunque questo, forse tranne che per i pochi che hanno magari tratto profitti dall'andamento delle borse, questo è stato un anno terribile per tutti. Dire che è stato il peggiore in assoluto, mi è subito venuto in mente che se facessimo questa domanda a chi ha vissuto per esempio il 1945, ultimo anno della Seconda Guerra Mondiale, o dalla parte per esempio di chi è stato coinvolto nell'Olocausto, magari è sopravvissuto, penso a Liliana Segre qui in Italia, o magari a chi invece era a Dresda sotto le bombe degli alleati nel 1945. Ecco, quindi chiamarlo il peggior anno di sempre forse è un po' esagerato, ma che il 2020 sia stato un anno terribile, che tutti noi non si veda l'ora di lasciarcelo alle spalle, sperando naturalmente che il 2021 sia migliore, questo è un dato di fatto. Ma la copertina invece della versione americana di Time è un po' diversa ed è tutta dedicata a un premio che viene assegnato negli Stati Uniti ogni anno ai ragazzi che aspirano, diciamo, o sono già di fatto dei piccoli scienziati, dei ricercatori, e che vengono appunto premiati in questi programmi scolastici che ci sono negli Stati Uniti, e che per quanto magari possa sembrare un po' strano qui in Italia perché non abbiamo esattamente l'equivalente, lì sono molto diffusi, cioè i ragazzi, gli studenti che dimostrano un grande talento, un grande desiderio, una grande voglia di studiare, di applicarsi, possono partecipare a programmi speciali che favoriscono ancora di più questo loro desiderio, queste loro doti di studenti. E così questa copertina dedicata veramente agli scienziati del futuro, ragazzi che hanno tra i 13 e i 16 anni. La copertina di Spiegel invece, uno dei due principali news magazine tedeschi, è dedicata a Maradona, che sapete è scomparso settimana scorsa, a 60 anni, e qui si vede solo Maradona con le mani giunte, possiamo anche presumere in preghiera, gli occhi chiusi. Maradona sicuramente, direi, quarantenne probabilmente, sicuramente non era questo il suo aspetto nel periodo precedente alle sue ultime crisi legate alla salute, e il titolo in inglese è Cry for Me, piangete per me. Naturalmente il riferimento è a quel Cry for Me Argentina, che era la canzone più famosa di un musical di Andrew Lloyd Webber dedicato a Evita Perón. Il sottotitolo dice Genial, Excessive, Zerstörisch, Diego Maradona, geniale, eccessivo e autodistruttivo. E questo è un po' poi il riassunto che ne fa Spiegel, ma prendendosi anche secondo me il giusto tempo per un settimanale, ha aspettato appunto qualche giorno, ha commissionato alcuni articoli a chi lo ha conosciuto, a chi magari lo ha seguito come calciatore, e ne è venuto fuori questa copertina e molti ritratti all'interno. C'è però l'unico altro richiamo a un articolo interno, è una Pippi Calzelunghe, che non è naturalmente una fiaba tedesca, però è una fiaba molto popolare in Germania, e questa Pippi Calzelunghe si tiene sulle spalle un coronavirus, e l'approfondimento è Stark genug, abbastanza forti, cioè il tema è ma i nostri bambini, i nostri ragazzi saranno abbastanza forti per superare a loro volta questo annus horribilis del Covid, e saremo abbastanza forti noi genitori o noi adulti per aiutarli, e all'interno naturalmente il parere di molti psicologi, scienziati, pedagoghi, eccetera. Ultima copertina, quella dell'Economist, che si intitola Making Coal History, cioè far sì che il carbone venga dimenticato, diventi storia, faccia parte del passato, ecco appunto la parola history. E in copertina c'è soltanto una teca di quelle che si vedono nei musei, l'etichetta dice vissuto tra il XVIII secolo e il XXI secolo, e dentro c'è un pezzettino di carbone. Il tema è naturalmente legato al cambiamento climatico. Molte delle emissioni del settore industriale, ma anche per quanto riguarda il riscaldamento delle case private, è legato all'utilizzo del carbone, e da qui quindi una scelta che potrebbe essere avere un'accelerazione in molti paesi, a partire dagli Stati Uniti, con la nuova amministrazione del presidente eletto Joe Biden, che ha già annunciato che gli Stati Uniti rientreranno nell'accordo di Parigi, ma quello diciamo è un passo formale. Il tema è che mentre l'amministrazione Trump non aveva fatto passi per diminuire la dipendenza dell'industria americana dal carbone, invece Joe Biden vuole farlo, e da qui quindi questo sforzo che viene dagli Stati Uniti, che rappresenta circa un pochino più di un settimo della produzione industriale americana. Naturalmente, se un paese come gli Stati della produzione industriale mondiale, se un paese come gli Stati Uniti fanno questa scelta, e poi molti seguono, ma lo sapete, ne abbiamo parlato tanto nelle settimane scorse, anche nel Regno Unito Boris Johnson si è più volte espresso a favore di misure e di piani molto ambiziosi per ridurre le emissioni entro il 2030, in questo caso non soltanto quelle legate all'utilizzo diretto del carbone, ma per esempio ai combustibili fossili delle macchine. E quindi l'idea, poi vedremo se ci sarà ancora Boris Johnson al governo tra 10 anni, l'idea che entro il 2030 non sia più possibile vendere macchine che non siano elettriche, macchine nel senso autovetture per l'utilizzo privato. L'ultimissima segnalazione dal Regno Unito è invece la copertina bellissima, la prima pagina del Times di ieri, che ha questa foto, che è in realtà una foto scattata da uno di questi telescopi incredibili che appartengono veramente, sembrano appartenere a un racconto di fantascienza, ma in realtà sono realtà, che ha fatto una specie di grandangolo della galassia nella quale siamo immessi, la Milky Way, la Via Lattea, e il titolo della foto è Out of this world, fuori da questo mondo. E torniamo su cose invece molto più legate all'attualità, e a un'attualità non piacevole, perché lo abbiamo detto tante volte, non c'è solo il Covid, naturalmente il Covid ha fermato tantissime cose, ma per esempio non ha fermato il terrorismo. E quindi Le Figaro ha spiegato nei dettagli che il governo francese, naturalmente questi sono provvedimenti sui quali il presidente Macron e il suo primo ministro e il ministro degli interni stanno lavorando da settimane, ma adesso ci sarebbe in effetti questa idea, dopo aver identificato 76 moschee che sono su suolo francese ma non aderiscono ai principi repubblicani, in particolare per quanto riguarda le regole contro il separatismo. Bene, 18 di esse rischiano proprio di essere chiuse dal ministro dell'interno Gérald Darmanin, e altre ancora comunque saranno messe sotto stretta sorveglianza, perché come è già successo peraltro in passato, ricorderete sicuramente tutte le inchieste post 11 settembre su come si era arrivati a trasformare in molti casi dei giovani non particolarmente legati al fondamentalismo islamico, benché di religione di fede musulmana, come si era arrivati a trasformarli in terroristi, e le inchieste avevano dimostrato che molta della formazione, quindi di questa trasformazione da musulmani a fondamentalisti islamici, disposti appunto a salire su un aereo e lanciarsi contro le torri gemelle, era avvenuta nelle moschee, in particolare in molti casi in quelle tedesche. A proposito invece di Covid, Le Monde ha fatto un lungo articolo perché secondo le informazioni raccolte appunto da questo quotidiano, la commissione d'inchiesta parlamentare dell'Assemblea Nazionale, il Parlamento francese, incaricata di valutare la risposta al Covid, ha puntato il dito, e presto questo documento sarà reso pubblico, su tutta una serie di mancanze, inclusa dagli atti vertici dello Stato, prima e dopo, durante la crisi sanitaria. Questo è un tema che sappiamo diciamo, è molto importante anche da noi. Anche qui si discute già di quali possono essere stati gli errori, in particolare subito prima della seconda ondata, e vedremo se ci sarà trasparenza in Francia e poi se ce ne sarà anche nel nostro paese. Il nostro ministro degli esteri Di Maio invece ha dato una lunga intervista a Les Echos, quotidiano francese, parlando dell'imminente presidenza dell'Italia del G20. Ultimissima segnalazione, perché è un tema molto interessante in questi giorni, in questa settimana, una famosa attrice britannica ha dichiarato di essere transgender, finendo sulle prime pagine di tutti i giornali. Internazionale invece ha tradotto un articolo apparso su una rivista norvegese che racconta la storia di Caroline Farberger, amministratrice delegata di un'azienda inglese. Nel 2018 si è sottoposta a un'operazione per cambiare sesso, ora vede cose che da uomo non notava, come i privilegi maschili. Una bella storia, appunto, un'esperienza che o la si vive oppure credo non la si possa immaginare. Però se la si vive poi si può decidere di raccontarla. Era l'ultima segnalazione per oggi, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli.